Bene, sempre collegati su Radio Live Station col programma Acid Groove. Questa era la mezz'ora di DJ Electroshock. Passiamo all'altro set, DJ Vulpis on streaming.

Acid Groove. Sempre sintonizzati su www.radiolivestation.com. Questo è il programma Acid Groove, il versus, la sfida di Jimutis ed Electroshock. Radio Live Session, DJ Vulpis ha presentato Acid Groove.